società di Chirivania. Sì, già lo so già. Comunque sono cose un po' brutte da vedere. E ho detto, ma non è che si può dare a qualche associazione, curarlo? E io ho detto, lo sai quanti ne succedono a questo signore che è un allevato di cavalli? Quanti ce ne muoiono, quanti ce ne cadono a noi di cavalli? Se dovessimo curarli tutti non basterebbe tutti i soldi che guadagniamo. Già lo so. Ma lo manco un gas a farlo a macello, cioè proprio per non farlo morire così, buttarselo così. No, ma dandolo secondo me a qualche associazione che si impegna, lo fa operare e lo tiene per fare passeggiate per i bambini, queste cose così, capito? Oh, non ne ha fatti nulla. Che la matta ne è. Secondo me pure qualche volta si scappa pure la vada, altro che c'è nulla. Andato veterinario, te l'ho visto io, andato veterinario e poi sono andati con un trattore con una ruspa e praticamente hanno fatto salire invece sulla ruspa e poi l'hanno alzato con la cosa, gli ha fatto l'iniezione ed è mosso contro la ruspa. Poi li recuperi magari da una base e quando se ne vanno tutti lo seppelliscono. Scusate. Luca! Si è commesso una guata, la fatica è giunta in deposito, si è incazzata a Baruga. Se il cane noi lo trattiamo benissimo, lo diamo da mangiare, c'ha la sua tettoia, c'ha l'acqua, c'è tutto quello che può avere un animale. Chi ci ha detto che noi il cane lo stiamo trattando male perché era di fuori, eccetera? Ma non si sta esitando nei cani come li trattano, se non li danno neanche da mangiare. E chi era questa qua? Una di quelle tronte. E quella della Lida, roba del genere. Ma sai, c'era della Lida e del lungaggino che se la pompiano. E giunta in dottore, sta a pigliarsi la pompa, è incazzata, chi sta? Ma non sei niente. Col cane è trattato, logicamente lo dobbiamo tenere nel recinto perché sennò si butta sopra le persone e cose. La mattina lo scappa, si fa il giro, corre, e tutte cose, cioè c'ha da mangiare, c'è tutto. Vabbè, se poi cane da caccia è così, mi lo trattano così. Io, guarda, vado in un deposito a Porto Torre, ci sono due cani da caccia, anche se vedi quanto sono magri si spaventi. Li tengono magri apposta perché ci devono essere agili. Ma sai cosa si mangia lì? Io ci butto le cassette di plastica lì perché praticamente la plastica, le cassette in plastica non si ritirano, le portiamo in un deposito che ritira solo le cassette in plastica, le bottiglie, tutte queste cose qua in plastica, no? E questi cani qui sono del padrone che va a caccia. Se quando arrivo a volte le cassette di plastica, se avanza verdura, roba, ci mangiano tutto bumata, tutto si vive. No, ma lui mangia, che pizza che mangia? Si porta anche un bel vassoietto di tutta, di carne, di tutto. Le compriamo le scatolette, le diamo da mangiare, quei pacchetti, tutto questo cane. È bello grassotto anche, cioè è bello robusto. Caccia lo usa. Che volta l'ha portato? Cos'è Sparobretto, cos'è? Proprio quello. Sparobretto? Yeah. Eccolo lì, è buono. Ma non bel cane. Papà. Guarda, lui dice fate. Fatto si chiama. Si chiama? Fatto. Paga. E comunque adesso mi stanno castagnando un bene. Ti controllano il microchip, tutto quanto. Già passati sono. È tutto a posto, dalla tettoia, a tutto. Non gli manca niente quel cane. Invece provano a guardare i canili che li trattano si trattano malissimo, non gli danno neanche da mangiare. Ma l'ho visto che c'è l'antenna 1? Non l'ho visto. Sono andati i vigili, hanno aperto questo canile, gli hanno sequestrato i cani, gli hanno praticato e fatti portare un altro canile. E c'erano tre volontari gridando, c'erano le carriche di macchine, i vigili, c'erano i biliardi, i pita, fatta. Questa qua che gridava, lasciate i nostri cani, li volete ammazzare, questo, perché dice che questo canile ne poteva tenere 100. E invece ce n'erano più del doppio. Dove li mettono questi poveri animali? Carica dice che li vogliono portare, però loro, questi volontari, stavano dicendo che a Carica stavano pensando un nuovo canile più grande e che li avrebbero trasferiti lì a Carica. Invece non gli hanno lasciato il tempo, sono andati e li hanno presi prima. Certo. Oh, ma non li trattano bene i canili. Non lo so. Tu pensa che un canile lo fornivo io. Gli portavo le crocchette a sacchi, una pedala di crocchette, una pedala di varichina per pulire i canili. E purtroppo sono dentro le gabbie i cani, non è che siano liberi. Dove sono proprio lì, no, qualcuno libero ce lo lasciano anche, quelli più massuiti. Sono già libero, sei punti di 30, ha fatto le nulla, a due varie. E sta mangiando, sta nulla. Perché sono triste, non ho una faccia triste. E ti ero un credito. Andiamo a questo, facciano bene. E lì è il comune che ci deve pensare. Perché i volontari più di tanto non possono fare, se il comune gli dà quella struttura lì, loro lavorano su quella struttura, non è che possono fare una struttura loro. Già lo so, purtroppo, ci chiedono anche di adottarle qualcuno, quella rete. Mia sorella deve andare a prendersene un altro, lo sai, ne è morto il cane, è morto di cancro. Quindi se Grillo gli è morto, era poco simpatico quel cane, era tipo uno Yorkshire però grande, no? Quando arrivavo fa così ogni avrinco, mi veniva la casa, era poco affettuoso, anche troppo. Qua la fa? Posso andare lì nei canini, tu già l'hai vista, te lo ricordi a prodotto se l'avevo trovata in piazza col cane? Quello è morto. Ha detto. Detto che adesso vuole andare a trarsi a prendersi un altro, ma il canile se ne sceglie uno se lo porta a casa. Sono operati bene, corare. E così gli fa compagnia. Che ha fatto? Era Marco molto riconoscente. E comunque, tutti gli animali sono riconoscenti quando sia il gatto che il cane. Sono molto riconoscenti perché gli dai da mangiare, gli dai tutto. Si va a ricordare che c'è di meglio di noi, mi ha tutto, mi ne mangia, mi senza travagliare. E animali sono. Beh, il cane da caccia lavora, quello pasto del tedesco. Se lo usi per quello che deve fare, deve fare il parcare pastore. Ma le mani lo stesso fa il pastore, oppure il passatesco fa anche il cane da guardia. Già lo so. Ma che cane c'è che lavora? Ma se il cane poliziotto lo lavora, non che si va nelle scambe di fichi drogati. No. Tracce, sì, non so quanto. Cani da valanga, ce ne sono che lavorano di cani. Gappa. Ehi, vabbè. Dunque, perché il quartiere animale, capo, secondo me, quando tu lo tratti bene, guardi, è riconoscente. Anche il gatto, io me ne accorgo, ogni tanto prende. Cioè, ci vuole proprio bene a noi. Gappa, ebbè, anche tu sei così. Titi, se per dire io mi faccio male o cose del genere, vieni a leccarmi. Sì, hanno una riconoscenza grande, hanno. Avvisano anche molto. vado subito a guardare a vedere cosa è successo. Infatti. Molti cani hanno fatto trovare i padroni, hanno salvato i padroni, lo sai. Abbaiavano sino a quando qualcuno veniva magari attirato, chiamava per dire fosse il rude, suonava la porta, poi c'era il padrone che stava male. Si affacciava. Così. Sono animali molto molto molto intelligenti. Io penso che sul giornale ho letto di questo cane che viveva con questo anziano, hanno invecchiato insieme praticamente. Il cane era anziano lo stesso. E il padrone è morto. Beh, dal momento che è morto, che l'hanno portato al cimitero, lui si è trasferito al cimitero, sta sempre sulla tomba del padrone, lo sai. Beh, no, ma un cane è così. Il cane è riconoscente per tutta la vita. Sono animali molto intelligenti. E il cavallo è lo stesso molto intelligente come animale. Ciao, credo. Beh, mi manca la parola, come stessi. E infatti molta gente diceva, cavolo, a farsi domare da un ragazzino, un animale così grande, cavolo, a farsi domare da un ragazzino, ma ci pensi? Capisce tutto, capisce. Lui ha fatto una doccia a una ragazza, al cavallo, c'era la pompa, no, dove avevamo le ambulanze, noi parcheggiate, c'è un caseggiato. Ci sono le dottoresse lì dentro e a fianco ci sono le stalle dove gli fanno il coso antidubbi. È andato dietro l'ambulanza questo ragazzo, con questa ragazza dovevano darle da fare al cavallo e lavargli le zampe prima di correre perché lo rinfrescano un po', no? Cazzo, ha fatto un po', ecco tu, questa spruzzata, una luce gli ha fatto. Che ce l'hai fatta a bagnarmi, ecco, guarda come mi è conciato, tutta la baffa, cazzo, lamba via. Coraggio. Ce n'era uno che voleva sempre da mangiare, era l'unico che ho visto che voleva sempre l'erba, cercava sempre erba. Io sì che ce l'ha fatta. Ma belli, uno più bello dell'altro che i cavalli, tutti quanti belli tenuti, strigliati, fatti, con la treccia nella coda, chi gli ha tagliato la coda, chi gli faceva la treccia, chi gli faceva la coda nella treccia, ah, bellissimo. Capra, belli sono. Io oggi avrei paura di andare a cavallo. No, se è tranquillo che non succede niente. Che fanciulli pesavano, tanto si pesava le 40 kg di truppo, erano magri, magri, bassi. Ti dici se... stiamo bene in un cavallo. Ma dico, i fantini erano leggeri, leggeri. Eppure qualche cavallo non si voleva far sellare. Cappa, cappa. Aspetta un attimo, guarda, ti la racconta. Già te ne metto le briglie. Coltone, alici di burro. Stai rientrando, alici di burro. E certo. Sì, ho cenato. Dei 4 minuti mi adesso pure... Mi dico che un attimo avanti all'altermento per andare a lavorare. E allora? Domani? Via. Poi grava. Meglio così? Sì, e meno. In caso i soldi, e soprattutto per Pasqua, e anche di più. No, no, pensavo che cosa. Pomponio. Ciao Antonio. Ciao Pomponio. Dovrebbe andare domani a fare shopping. Magari. Allora. Orale. Il lavoro. Lungo ragazzi domani mattina. Mungetturi. nomi, nomi. Buonasera. Stefano. Oh, no. cominciava a perdere l'equilibrio. Anche papà poi cadeva molto spesso e una volta è caduto in bagno e si è sbattuto la testa al bidet. Tanto deve dare a lui. anche che lavori così, allora devi stare anche un pochettino così. Perché se uno non lavora tutto in regola, a volte in maracana te la fate pagare la fattura. Ti volevo dire già, che fine ha fatto cosa quello che si stava a Baracchino facendo trasporti per cosa, di punti, per dire com'è? Non l'ho più sentito a Baracchino, te lo ricordi? Faceva trasporti di punti. Non ho capito che stai dicendo. Quello che si metteva vicino sempre da coso, da bricone. E non ho più sentito la verità. Allora chi non oggi più inteso. Ho lavorato anche con coso, con Anima Lunga. Esatto, non mi viene in mente il nome adesso. Non l'ho più sentito da quello. E boh, sparito proprio. Anche non l'ho più sentito la verità. Chi sta lavorando? Da Alto. C'è l'altro da Fabio, mi sembra si chiama. Fabio? Non me lo ricordo adesso. Per andare. Dice che c'è da dicendo a quello lì. Voi sta lavorando alla PNC? No, non era Fabio. Magari. Ottava abitava, se mi ricordo male già, così è. Mi pare, sì. E si fermava lì da cosa, da Brico, aspettava i clienti, diceva, signora, deve fare qualche viaggio. Diceva, mi attempio, mi serve tutta questa roba. Prendeva lui, caricava. Lo pagava, ma viaggio così, e lavorava così. Ma buono, non so cosa dice. Ha detto, beh, ho detto una volta che le avevano detto cose da Brico, ma che ci avevano già gli autisti loro, che non si doveva mettere in mezzo, lui che non era autorizzato a farlo, boh, se non è che gli è andata male quella cosa. Si è già fatto zona, boh. Chi lo sa, boh. Già me lo ricordo anche io, non mi ricordo come si chiama, ma mi ricordo che un giorno stava cercando a Saverio perché riusciva per fare uno scarico che lui non ce la faceva, boh, aveva avuto qualche problema sicuramente. Sì, Saverio adesso non ho più sentito, stamattina ho visto a cosa però, l'ho visto qua a Carburati parlando la luce, al figlio di Battiano, quello che modulava giù da... una cosa, da... alla Budibudi in fondo, che Falcone ci va in testa per lui. Adesso mi ricordo il nominativo, ora. Io ho capito che stai dicendo. Quello che era il camionista. Non solo questo. No, no. E altri. Sapeva un di quei furgoni di punta, una cosa del genere. Sì. Sì, stato compreso che si senti, adesso non mi viene il nome. Stamattina ho visto a cosa, ho visto, ti dico di quello che assillava Falcone, che Falcone assillava già. È Piero? No, no, no, non è Piero. Figlio di Bastiano, cazzo, mi viene in mente per il nominativo, lui che abitava la Budibudi in fondo, mi, a sinistra. Che un giorno ci siamo usciti in tre qua al circo e lui addirittura si era innamorato di due ragazze, beveva whisky e cose del genere, gli ho detto dove vai, mi accompagno io a casa del conto, invece l'ho accompagnato lui a me in moto, cazzo. Non me lo ricordo questo qua, c'è Benito che abita lì vicino, ma alla fine della Budibudi è la strada che va verso il Sosso. No, non mi fa sorso, no. Qualcuno mi viene in mente il mio attivo adesso, stamattina l'ho visto. Pagando, stava parlando lei, la luce da lei ci abbiamo attaccato due volte. C'era Falcone, c'era morato lui, c'era morato quel periodo. Mi viene in mente il mio attivo, guarda, se mi viene in mente te lo dico. Mi ha detto, perché non ti piace il barattino? Dice, c'è tu, c'è lo Gicci, c'è ancora tutto lì a casa. E poi piatta, ho detto, così almeno venti qualche volta, ci fai piacere. Dice, boh, adesso vediamo, vi ho detto. Pagappa. Vabbè, qualcuno ci entrerà sempre. Se non entra lui, entrano gli altri. Ma ci qualche problema. Ogni tanto ho sentito due di Alghero che vogliono ripensare tutto. Bisogna che la cosa, se rientra Andrea Maricovio a fare il casino. Adesso si è sposato, è provato tutto. Gli telefoni io li caglio di piazza tutto in macchina, così ci divertiamo come una volta. Ma è meglio che casino non ci sia troppo, meglio essere tranquilli. Sai che vedo spesso a Maria, vero? Quella di Ussi che modulava dietro la via adesso. Maria? La Ricciolina? Maria Ricciolina. Andava. Già la conosco, la saluto pure. Mi c'è andato lungo già. A me non mi riconosce la verità, non mi conosce più, perché l'ho vista, l'ho volata, e poi mi sembra lei, e c'era lì infatti, l'ho fatto per lui, c'era lì, solo che lui non si ricorda di me, bello è quello. A me mi saluta pure, sul pollicino. Sul pollicino adesso infatti, sì. Paga, pago i pollicini che vanno a fare di scuola, bus, non fatevi un cavo. Ho trovato un amico stamattina, mi ha detto io alle 8 e poi sino a luna sono libero, dalle 8 a luna sono libero. Diciamo che ho un lavoro abbastanza tranquillo. Quindi che fanno una macchina, non è che facciano, che siano così tanto distrutti tra vivi, la verità, perché ogni viaggio si fanno 10 minuti di relax, quindi non sono mica distrutti, no? Poi fanno quasi 7 ore, quanto sono 7 ore qualche cosa, so. Non so se facciano 7 ore e 40. Mi sembra che fanno 6 ore e 40, una cosa del genere, quasi 7 ore fanno, va. Però adesso sono seduti, sempre qui, intanto si rilassano, vanno al bar, quando fanno quei 10 minuti. Sono i vigili urbani che si date in un giambo, hai visto? E tu vieni a vedere i vigili urbani, vieni qua sotto, la mattina alle 8 in punto, 8 e mezzo, massimo 9, li vedi tutti qua, ci sono 4 macchine. E magari se uno va a rubare su Ferrabbe... Che l'altro giorno mi hanno messo sotto un ragazzo sulla VDVD, non c'era una pattuglia disponibile, né polizia, né carabinieri, né vigili urbani. Poi è arrivato il padre di questo ragazzo, si è messo a voce, gli ha telefonato e ha detto che non era un animale, il figlio, e che dovevano essere fatti rilievi. Allora gli hanno mandato la stradale. Non è capito dalle 8 e mezzo del 9, sono tutti al circolo a farsi la colazione. Se tu vieni qui sotto, non disturbare dalle 8 fino alle 9, massimo 9 e mezza, poi vanno dalle 9 e mezza alle 2 e poi dalle 2 alle 4 e basta. Sa fare le fotografie? Basta fare, come ha fatto un sindaco, le metti su internet le fotografie, fai le foto e le metti su internet, non ci vuole molto. Su YouTube, su Facebook non c'è problema. Quando poi vedono le fotografie, sta tranquillo, qualcuno già si muove. Ho un bel filmato, anche un bel filmato, non ti vento con la cravatta e con la caretta in camera e vedi mangiando, bevendo, loro, tranquilli. Tu non ti vento e fai il filmato. Come qua, sono andato a prendere una cosa. Cava. Avvenirà poco un casino che te sempre. Già me lo ricordo già. Un casino che è vera questa frequenza. È quello che non mi è mai piaciuto a me. Gente che provocava, rompeva le palle. Gente che credeva di soprattutto uno che adesso ho capito chi è. Che poi a Gio Compresa ha pigliato già la faccia, uno che faceva molto prepotente. E da poi ha già tutto che ha pigliato già la faccia. Io ho il tempo passato di santo. Cosa ti stavo dicendo lì? Quando ero in figlia, un giorno ho portato a Marcolino, mio figlio, ai giardini che ci sono al monte. sono arrivati questi due motociclisti dei vigili urbani e sono andati sotto questo albero al fresco, capito? Era d'estate, là. Se ne sono andati al fresco, si sono tolto il casco, tutto quanto, e si sono buttati nella banchina. E l'ho fotografato con oltre l'obiettivo. L'ho fatto un primo piano, da poi però non ho fatto nulla. Avanti, buon po'. Sentate, con il moto prende già il già, se ci apparirà, si vede una cosa del genere, buona la multa. Da voi, se si può pure a rifusarsi, bobo. A rifusarsi, c'è un non te lo sto dicendo. L'ho portato a Marco una volta che era in fine d'estate. A giugno sarà stato, giugno, luglio. E praticamente l'ho portato ai giardini del monte a giocare dove c'è quel parco con i giardini. Là. Sono entrati con le moto i vigili urbani, due vigili urbani, si sono bussati al barcheggiato di moto e si sono bussati nella banchina, si è regalato un casco, oh, si sono bussati anche i laghi, tutto gatto, io li ho fotografati da lontano, ma dopo non ne ho messo fotografie sul giornale, lo volevo mettere sul giornale. Gatto. E da poi che li chiamano, no, siamo occupati. E loro sono pagati per quello, io non dico che sono un cane, sono persone, hanno bisogno anche di bersi un bicchiere d'acqua se lo levano bene, ma non a saldare io l'inchiva, ho già capito che sono saldi, c'erano i denti, i freni, e loro la moto parcheggiata a fianco e quelli sdraiati nella panchina. Tu magari se fai anche intervento già di Giovanni, già rispondono alla radio magari. Ehi, ma a del geotraffico non vanta nemmeno. Oh, che fagazza. Ma poi magari andare a rompere la palla che comunque trova gente e magari si fa anche cosa fuori posta. E voi siete buoni seconda vita, siete buoni la multa. Oh, yeah. Allora, Fasadini, se buoniane, a capota allo semaforo quando le prendono le macchine avessi capo le scuole. Ah, così? E se non si bloccava? Ah, ho bloccato e gli ho messo la contravvenzione. Raga, una signora. Lo so, anche a Samuele gli hanno preso 5 punti della patente più la contravvenzione perché si è fermato 2 secondi in uno stato invalido che tra l'altro non si era accorto manco che c'era. Si è fermato e ha detto me ne sto andando, no, si fermi. Adesso facciamo la multa, mettiamo i punti della patente, eccetera, eccetera. La bella bigliata la patente, poveraccio. Ovviamente era un po' incazzato. Non è che puoi dire niente, se sei sul parcheggio invalidi hanno anche ragione, però bastava se era uno un pochettino più elastico, diceva si accomodi che qua non può stare, per dire se ne andava. Ovviamente, in mezzo a tanto ci ha fatto avere, perché dopo che si incassa nel muro, magari era, non lo sappiamo nemmeno, perché io lo vedo ore e ore facendo queste cose qua. Il matrice invalide, chi si ricade nel rubarato, chi si chiamano, magari stanchi delle telefonate, eccetera, eccetera, perché io l'ho scoperto, no, e te lo posso dire con certezza, che andano a chiamare le matrice, semplicemente, diretti, si incazzano, e gli hanno il primo che acciappano e non perdonano. Non c'è poi due bruttani, due bovacci, ci ha spiegato. Due giorni la patente ci aveva. Gli ha recucciata, mi sembra che sono il doppio. E adesso sì, perché mi sembra che quando c'è 18 anni ce lo fanno il doppio. No, tanto c'è appena una patente fredda. Ma così è. Allora, non vedremo fare stata. No, oh, io sento, certe cose hanno raddoppiate anche le multe e tutto quanto, quando sei fresco di patente, vabbè, la patente è la 18 anni, non è che la di prima, no? Vabbè, non va potete già più apprezzo. Però se siamo sempre con il battente, andiamo di dietro. Invece che passarsi sopra, ti penalizzano di più. Certo. Io già, ma purtroppo viste e sono ucciso. Io dopo un minuto non prenditi le palle, attencate. Beh, da una parte già li sta anche bene, perché così almeno imparano e poi rispettano le segnaletiche. Io ci sto molto attento, l'unica cosa che faccio è seconda fila, quando devo scaricare che non trovo parcheggio, cosa vuoi, se un travaglio. Già lo so, che cosa deve fare? E poco, qualcosa. Io per esempio quando entro in macchina mi sento la pistola, sempre. Anche io, lui anche io. Una volta il mio padre dovevo scaricare una gelateria, seconda fila, però passavano bene le macchine tranquillamente, ne erano passate parecchie macchine. Sono salito in questo palazzo a fare questa consegna, scendo giù che se trovo carabinieri, un casino, dovevano passare i vigili del fuoco col camion, ma era, non era un'urgenza. Sono passati col camion e stavano suonando, sono arrivati i carabinieri e mi hanno fatto fermare, mi hanno chiesto patente, libretto, questo, quell'altro, c'era tutto quanto. Meno male mi hanno detto, la prossima volta che si ferma così, ne prendiamo la patente, perché sta ostacolando un servizio pubblico. Tra l'altro, meno male non era d'urgenza, se fosse stata d'urgenza mi ha detto che la patente me l'avrei giocata. Hello, hello my friend, hello. Ma però siamo un amico della Sardegna. Della Sardegna. Ma com'è che erano i carabinieri di Bolzondona? Hello my friend, il mio corpo è avanti già. Signori e signori, buonasera. Ciao Gianni e ciao carissimo, che adesso non mi viene nominativo. Ok. E Antonio Bombolo c'è anche Lisi, Rintintin, nonché Pompugno. Salutoni circolari, dai. Salutoni circolari da queste terre, va bene. Ciao Sa, buonasera, dai. Giapponesi, spagnoli, c'è soga, tutto. Bobo, scusami ma non ti ascolto, sei coperto da propagation. Gappa, dai, provo a rimediare. Aspetta un attimo, vuoi cambiare la radio. Cavaga. Sa. In questi giorni non mi vedrai, sa. All'anima, speriamo, diciamo, che sia per questioni positive. Sì, tranquillo, positive. Una settimana di ferie. Ah, ecco perché hai fatto stamane verso le, non lo so, sono state verso le 9:30, 10, ho visto il furgone. Ho fatto lampeggiate, ho fatto le luci, tutto quanto, poi quando me l'ho avvicinato ho detto, tanto non è Gianni, e vabbè, no. Solitamente se non ci sono io, ma adesso l'ha preso il mio collega, perché ogni tanto ci danno queste ferie così, diciamo che abbiamo dato l'anno scorso, eccetera, eccetera, dobbiamo recuperare. Vabbè, già ci vogliono anche le ferie, scusami, già ci vogliono, non è che diciamo si deve solo lavorare, ci vuole anche un attimino di relax. Stamattina ho fatto tantissime cose, poi c'è una bella giornata, mi sono dedicato, sono andato anche a vedere quel centro nuovo, quel nuovo centro commerciale. Ah, centro commerciale di Carrefour. Com'è? Mamma mia, io non mi trovo, sai. C'è troppa roba e non sai, ti senti un po' sperduto, non sai dove andare, dove cosa guardare, pieno zeppo di gente, un casotto. Eccolo qua. Ma dice che è abbastanza, diciamo di, che è abbastanza all'avanguardia, che insomma è abbastanza spazioso, enorme. Lì come un euro, dice che un euro è abbastanza grosso, diciamo, a parte solite cose, più o meno, qualche novità, ma diciamo che è abbastanza grosso. Sì, sì, sì, sì, quello sia l'avanguardia, grande come locale, ma tu devi vedere le fiumane di gente sulle scale mobili che ci sono, e dentro. L'innovazione, adesso logicamente la gente è curiosa, no? Giusto per vedere un attimino, poi pian piano magari si stabilizza un po'. Ah, magari, hai entrato Pierpaolo, lo senti adesso? Prova a farlo venire avanti, avanti Pierpaolo, quello buonasera. No, è Antonio, Antonio. No, no, guarda, c'ho, non so se è americano. No, io sanno già. È allucinante. No, adesso stai strappando, abbassa appena. Ciao, Antonio, sono Gianni. Aspetta un attimino. Ok. Così va meglio? Antonio, scusa, mi sembravi per farlo, si capiva bene, era una modulazione strana. Senta, la radio sono, caricata, e pensavo che c'era una cassetta e me la potete ora, se invece niente. Adesso la modulazione è molto migliorata. Ciao Sandro. Ciao, grandissimo, carissimo amicone. Ma quello ti ricordi no, non me la cotto, sì. Allora, sono di capo frappi, è stata la regolata, regala. Eia, ciao Lu. Ma cosa vuoi che ti dica? Guarda, cazzo, tu, sto perdendo la testa, ogni tanto, cazzo, dai numeri. Dai numeri questo mic, non ho capito perché. Eppure è sempre lo stesso, non è che... Eppure non sto facendo niente di particolare. Allora, vediamo un attimino. Luca, va bene? Secondo me ci sto facendo l'alimentazione. Infatti, mi è arrivata la parola alla bocca. Secondo me come l'alimentazione. Okay. eccolo qua l'invito, dov'è? Ok, vedi un po'? Un pochettino, 4, 5, 4. Adesso va bene, va bene. C'è un po' di propagazione, ma con quegli attacchi tranquillamente. C'è un po' di propagazione, c'è Antonio, vai Antonio, sei Cassandro. Una persona che stavo parlando stasera, ma perché tu chiedi, quando ho trovato il rovino? sottino, che tu commenti, lo trovi tutto quanto sulla, sulla destra. Sì, ma sono cambiato, mi sa, questo lo cambiò qualcosa di dentro. Ah, e allora avevamo cambiato di cose. Comunque Sergio, il coso, la guardia, c'è sempre lui, c'è sempre Sergio. Già, sono due guardie. Luca Antonio Gianni, il 12 sembra più pulito. Ma io sul 12, là. Via? Quando parlava Sandro vi sentivo sotto, invece adesso non sento nessuno sotto. La si sta ammassando tutti i suoi canali. Vabbè, tutti l'hanno pagata la concessione, tutti hanno lo stesso diritto. Avanti, sa. Ok, dai. Vabbè. Tutti hanno diritto, diciamo, di farsi la sua chiacchieratina. Va bene, adesso è periodo di propagazione. Tutti si ci buttano dentro. Adesso quando è l'altra sera stavo lì modulando, normale, non mi ricordo in quale canale fosse. E c'era questo qui che arrivava basso, poi ho provato a fare la chiamata e mi ha risposto. Le ho chiesto di dove era, mi arrivavano Santiago di 5, 6, Radio 4, diciamo così via, in mezzo alla propagazione. E questo era di cosa? Di Taranto, addirittura. Poi succede la propagazione a voi, adesso l'estate vedremo, ne vedremo delle belle. Anzi, l'anno scorso ha cominciato questo periodo, si sentiva la Sicilia, tutti quanti. Se vai su 45 l'estate ti fai grow. Vabbè, diciamo che la propagazione è buona perché per tanti fattori, però ti aumenta di QRM, ti aumenta di segnale, infatti io delle volte devo attenuare proprio perché per non sentire tutto questo grande casotto, capito? Tutto lì, va bene, riprendi altro. Dove gli stiamo, se mi intende? Che dico dunque il po' di Dorattino, a ver se mi sentono lì, perché non mi sentivano mai. Già ti sentono, proprio ti sento. Questa chiappa. No, se non mi sentono, scelgano oro. La rusai già. Mi stufa molto, dico di un'imbarriata, vedi che mi intende. Senta già. Avanti, Sandro, o Luca, tu. Chiappa. Gianni. Eia. Sandro, non mi sento. Sandro, lo senti Antonio? Sì, già lo sento lì Antonio, no, ho cambiato Puledro un attimino per vedere un po' se riuscivo, diciamo, a sentire un po' Antonio, vediamo un attimino, prova Antonio. Chiappa, Sandro, ascolti il bombolo, chiappa. Insomma dai, già riesco diciamo a tirarti fuori ugualmente, dai, tutto quanto. Va bene. Chiappa chiappa, dai. E adesso tra poco mi tengo, anche se mi tratto. Scusami, quando sta arrivando a Porto Torres? Guarda. qui a Porotovese, mi arrivi intorno a Santiago 5, Santiago 6, la radio è Radio 2, Radio 3, proprio diciamo, non dico più Pio, ma siamo lì. Sì, ci ho toccato, è lì, a marca di un po' di apparato un poco. Ecco, te lo rimetto, riuso l'altro che c'è la radio più buona, cioè, e magari riesci a tirarmi fuori molto meglio. Infatti adesso lo so, un po' sorge un pochettino lungo, giusto per farti caricare il condensatore, a farlo andare un po'. Beh, adesso riaccendo l'altra, voglio vedere se mi senti bene. Capo, quella che l'altro giorno mi sentivo un po' bene. Ok. Vedi un attimino, prova un po', dai. Capo, un attimo che cambio la radio. Grande, riprende. Via, cosa avete messo sulla graviglia? Come lo usa la magnano? E allora, oggi è una bella giornata, Beh, insomma, diciamo che una giornata, diciamo, normale, tranquilla. Il mattino è, diciamo, che ancora c'è un po' di umidità, diciamo, ancora un po' di frescolino. E vabbè, diciamo che in quei giorni scorsi c'era un po' di vento, ha calato anche un po' la temperatura, quindi insomma ancora si deve stabilizzare. Vabbè, sì, quello sì, è vero, quello sì, è vero. Ma tu a pescare vai? No, io ho mollato, diciamo che ho mollato anche, diciamo, quella. Ho mollato anche quell'ubi lì, è già da parecchio che l'ho mollata, infatti c'avevo già tutto, ho eliminato un po' tutto, ma riguardo, diciamo, la causa, diciamo, della sigaretta, capito, perché mi sono accorto già che il fiatone, questo e quell'altro, ho detto no, basta, ho detto basta, perché l'acqua è molle, quindi sai com'è. Eccoli qua, Sandro. Eia, alto, prova un attimino. Sento Sandro, compri il bombolo. E diciamo che come modulazione, è leggermente, diciamo, più spinta. Da quello mi senti meglio? Positivo, in proporzione, diciamo, a quella prima, diciamo, che stavi modulando, a questa, diciamo, è più spinta. E allora facciamo questo. Ma Gianni, cosa hai appena fatto? Che sono qui. Cappa, sto sentendo un mezzo discorso, di cosa stai parlando? Ah, di graviglia. E dici su quella che cosa non c'è la graviglia, è la mania. Cappa. Ma poi ho sentito la sigaretta, non so cosa. No. Ho detto adesso non si andava a pescare. Già, e poi al giorno d'oggi andare a pescare, pescarti un pesce, vabbè, dipende sempre, diciamo, da dove vai a pescare, che non è che bisogna stare